L'immagine più bella era perfetta. È il momento di partire, partire, partire, partire e siamo partiti. Siamo partiti, siamo tornati, eccoci qua, in diretta. In diretta con Tycoons & Dragons, RIP GDR, La Maledizione di Katta, episodio 59. All'inizio, sono puntuale, della, all'inizio della sessione, guarda in basso a sinistra. Benvenuto anche al nostro oscuro Francesco Arcidiacono, che ci sta portando nei meandri della sua casa. Bello. Esatto. Mentre, come vedete, abbiamo uno spettacolare Enrico Cattabriga in alto a destra, con le mani Enrico in strada briga. Giulio Bosi con i suoi mille riflessi. Stefano Gamberoni, Edoardo Sallini, che stranamente molti dei nostri ascoltatori pensavano che avesse soltanto il profilo, e invece no, anche la parte frontale, incredibile. Però in camera non guarda, comunque. E anche come Marco Bosi, lui ormai conosciamo la sua location dove scrive cose, in realtà non sono chiaramente delle cagate, oppure l'ha già comprata così, non lo so, però... Dà l'idea di... No, ma l'ha fregata all'università. È sparito Katta? No, Katta è lì. Che sta, chiaramente... Sta glitchando. Tenere sia il... Oddio, oh mio Dio, scompare! Tenere sia un po' troppo. Obs sia lo stream, effettivamente potrebbe essere... Impegnativo. Però ti vedo arrancare, tipo... Esatto, tipo tricheco spiaggiato. C'è una soluzione a queste cose? Cambiare computer. Stare di su, sì. È quasi nuovo, no? Non proprio, però. Ma non abbastanza. E soprattutto è la connessione, il fattore limitante qua. Ma anche da voi Sfarfalla diventa grigio ogni tanto. Sì. Anche da me lo vedo sfarfallare. Io non so perché non mi fa proprio più vedere Katta, me l'ha tolto. Perché tu sei brutto. Vi vedevo perso tutto il Katta Privileges. Esatto. Adesso devi vedere Arci. Sì, che cazzo. Un latte. Sì, cos'è? Sangue di manzo. Bio scudo. È lo sponsor. Bio sangue di manzo. E rende più forte. Anzi, palle sangue di toro. Sperma di toro. Buonissimo. No, ragazzi, quello lo mangio il martedì. Lo bevo il martedì. Comunque, a parte lo sperma di toro, torniamo con La Maledizione di Katta, episodio 59. Come abbiamo detto, sapete ormai già benissimo che questa è la nostra campagna di Dungeons & Dragons. Per il momento ci manteniamo, ce l'avete chiesto in molti, no, non è vero, ma continuiamo con il palinsesto di una volta a settimana. Ma chi può dire cosa ci riserverà il futuro? Bicipite in primo piano, non l'avevo notato. Scusate, mi aveva distratto il bicipite di Sceo, colpa mia. Ah, è vero, che tanto è l'unico insieme ad Arci che si sta palestrando. Ah. Esatto. Ah. E va bene. Che dire? Direi di partire con un bel riassunto e di proseguire da dove ci eravamo interrotti. Oggi puntata molto calda, vorrei dire, che potete seguire sui nostri canali social, RIP GDR. Tra l'altro, se non sbaglio, oggi stiamo trasmettendo anche dall'evento, credo, ho fatto questo nuovo tentativo. E non so se sta c'è questa voglia di lockdown di Vez. Cosa? Questa voglia di lockdown di due puntate a settimana. Ah beh, ormai ci stiamo arrivando, ragazzi, tanto non c'è più niente da fare, quindi ci sta, ma ci arriviamo. Siamo ancora in zona arancione? Siamo arancioni, come tutti gli olandesi, ma tra un po'... Sì, ma non avete idea di... La gente ecco non dove ha la fregatura, qua. Oggi entra un cliente, ma potete vendere le sigarette? Cioè, non hanno capito niente. Non lo so. Ma tu hai le sigarette normalmente? Sì. No. Farebbe perché quello ridere. Sarebbe stato divertente. Ora che è iniziato il lockdown, sì. Prima no, ma adesso grazie a Dio sì. No, la cosa è che la gente è entrata in confusione totale, non ha capito cosa si può fare e cosa no. Ma quindi tu stai lavorando comunque? Ma voi non fate solo sport adesso? Sì. Però la gente può entrare e portarsi via la roba. Sì. È bello che, ma le sigarette le puoi vendere? Sì, ma se a cosa sarebbero limitate? Boh, io non sapevo che tu fossi le sigarette. Per esempio. Sì, fate solo solo asportazioni, voi scemo. Esatto. Ma quindi consegni anche sigarette a domicilio? Sì, se me le chiedi sì. Se prendi solo le sigarette non sei simpatico perché non ho un rincaro, però sì. Perché? Perché non hai un rincaro per le sigarette? Scemo, ma vendigliela 10 euro al pacchetto, ma anche il rincaro poi c'è. Se io ti ordino tipo una stecca di sigarette, corri secondo me. Alza voi il prezzo. Ti guadagno tipo 4 centesimi. Perché? Ma neanche. E noi non siamo un tabaccaio. Siamo una rivendita tabacco. Ma non posso! È monopolio dello Stato. Monopolio dello Stato. Vabbè, scemo, monopolio dello Stato. Arrivi lì, gli dai la cosa, 10 euro, via. Quindi prendete soldi dallo Stato per rivenderle? Come funziona? No. Noi le compriamo da un tabaccaio. Quando sei una rivendita tabacco, hai solo un patentino, ti appoggi al tabaccaio più vicino che te le vende lui, ma le paghiamo praticamente allo stesso prezzo. Cioè su un pacchetto abbiamo... Perché non vendete invece la cannabis? Secondo me fareste meglio. Ma quella non legalizzata. Quella legale, ovviamente. Chiolino. Hanno messo il legale, il principio attivo della cannabis light. Ma voilà, ho visto un distributore automatico, l'hanno appena fatto. Sì, infatti c'è questo problema che dovranno dirimere prossimamente. Vabbè, ma noi non siamo qui per vendere cannabis, ma per vendere emozioni, vero? Per ora no, ma con un raddoppio del palinsesto, chi può dire? Se ci arrivano dei feedback, possiamo anche iniziare. Come si fa a dire un principio attivo? Vabbè, se chi vende cannabis vuole sponsorizzarci, sì, noi siamo qua. Ci sta. Se oltre alle pizze volete mandarmi anche una cannetta, non si disdegna mai. Tra l'altro sì, effettivamente abbiamo una persona che non faremo il nome perché privacy che prova, che, cioè nel senso, queste cose le prova completamente molto. E non sono io, questa è la cosa. Sarebbe un gran servizio una pizzeria barra tabaccheria barra... Vostro onore, non ho detto il nome Giulio Bosi. Ripeto, non ho detto il nome Giulio Bosi. Non sono io, sono quello che ha colto la cosa con più entusiasmo. Giulio Bosi. Va bene, dai, scherzone, dai. Ragazzi, bene. Allora, cos'è successo nella scorsa puntata? Cose incredibili, allora, incredibili. Direi di dare la parola al protagonista indiscusso della scorsa sessione. Sfortuna. Ah no. È vero, sì, però i riassunti di sfortuna sono sempre un po' agrodolci. Perché? Dategli supporto. Vabbè, da inizio la prima parte. Vai. Abbiamo discusso e pianificato cosa fa. Ah no, aspetta. A che punto? Questo, cioè, non è che puoi usare la stessa cosa per tutti i riassunti, cioè, tipo canovaccio. E abbiamo discusso, abbiamo pianificato, poi è andata di merda. Sì, è vero, cioè, succede sempre questo, ma non è che possiamo. Siamo entrati nel bastione e abbiamo riposato. Abbiamo provato a riposare. Poi improvvisamente siamo stati disturbati dall'arrivo del crudele Radin. Il luogotenente. Non è stato porto maggiore oggi. Io? Sì. Io vado sempre a porto maggiore oggi. Sembri più allegro del solito. Pensavo si smarcò. Perché adesso non sono a porto maggiore. Perché ormai ha accettato il suo destino. No, in realtà è stata una giornata anche abbastanza di merda. Però quando torno. Quando non sono più porta maggiore, sono felice. Che fortuna che hai. Sì, è un privilegio. Sto privilegio. Tra l'altro oggi pioveva, quindi era pieno di pakistani, classico. Perché non secondo quella pioggia. No, se raduno, se piove si va in banca. Non so approfittano della pioggia per lavarsi. Non sto scherzando, col fatto che loro lavorano tutti. Ma ragazzi, non è uno scherzo. Voi ridete, ma non c'è niente da ridere. Col fatto che loro lavorano tutti in campagna per lo più. Quando piove non si lavora in campagna e quindi si riversano in banca. Però ha senso, le banche sono aperte e si può fare aperitivo in banche, non c'è scritto. I pakistani sono tutti musulmani, quindi comunque non farebbero aperitivo, però aperitivo con merda, che razzista carne... che sei, porca troia. Beh, però non possono bere. No, e non è un razzismo, è la loro convinzione religiosa. Quindi quando piove loro vanno in banca perché non possono bere, se gli entra l'acqua in bocca bevono, quindi devono... Berranno acqua. Hai capito, per fortuna. Comunque, berranno il tè, immagino. Berranno il tè. L'aperitivo alla fine è... Il lasi credo sia pakistano. Non so cosa sia, però mi fido di... Il lasi è quello, la bevanda a base di yogurt. Ah, okay. Credo sia originaria del Punjab, che è una regione del Pakistan. Comunque, grazie, ne ha parlato un manga Dragon Channel. Ma io mi sto fermando, ragazzi, bisogna sapere interagire. Comunque, pakistani a parte, combattere il nemico bisogna conoscere. Il crudele Radhi, che ha disturbato solo Garrosh. Poi il Garrosh crudele Radhi chiamare Pakistan. Sì, no, Radhi ha voluto parlare con me. E praticamente mi ha proposto di arrenderci senza condizioni. Un'ottima proposta. Le condizioni le ha date. Allora, le condizioni erano: voi vi arrendete, poi noi vi stupriamo e vi ammazziamo. Esatto. Aspetta, c'è una cosa migliore. Però nel farlo, cioè, non c'è la sorpresa, cioè lo facciamo e basta. Sai quando succede? Esatto. Sei artefice della tua rovina. Comunque, sostanzialmente, esatto. Ci ha fatto capire che Kretsk è stata presa perché ci ha parlato la testa di Martinkov. Sbaglio? Sì, esatto. Quindi ho provato a parlare con Martinkov, ma a quanto pare non era il momento. E quindi Kretsk, a quanto pare, è caduta. E loro promettono di uccidere tutti se noi non ci arrendiamo. D'altra parte, se non ci arrendiamo, lo faranno lo stesso. Quindi, poi alla fine, non è che cambi tutta questa gran cosa. Comunque, voleva una risposta da parte nostra. Perché inizialmente ci eravamo anche un po' illusi, perché pareva che lui ci volesse bandire. Quindi sembrava l'occasione anche propizia, ma in realtà, no, perché non ci può bandire. Quindi niente, semplicemente... No, bandiere dai centri abitati. Ah, e poi ovviamente il classico, le armi magiche, bisogna ridarle indietro e va bene. Sì, praticamente dovevamo... Non magiche, tutte le armi. Ma tutte davvero? Le armi, avremmo dovuto vivere fuori dai centri. Ma davvero? Tutte le armi. Anche le fiodo, ragazzi, io ho dei giavellotti, Ci avrebbero lasciato lì sulle montagne con le nostre mani. No, esatto. Penso. Sarebbe stato divertentissimo. E banditi dai centri abitati. Comunque non abbiamo tanto discusso sul fatto di accettare o meno, perché non era molto accettabile. E... Sì, questa volta no. Abbiamo discusso invece su come provare a ottenere un vantaggio facendo fuori Radhi. E il piano che abbiamo partorito... È stato un piano geniale. Più convincente. Il piano era geniale. Il piano era interessante, nel senso che era previsto che la risposta la portassi io. Sostanzialmente, lui voleva parlare solo con te. Quindi. Sì, esatto. E invece ci è andato sfortuna, camuffato da me, mimetizzato da me. E nel frattempo, sostanzialmente, il buon Puck, trasformato in aquila, trasportava Garrosh in alto per lasciarlo appunto sulla cima del bastione, per poter poi colpire all'improvviso il... Che colpire e fermarlo, esatto, bloccarlo, perché l'idea era quella, sostanzialmente bloccarlo, poi dopo noi salivamo e colpivamo. Non mi ricordo però perché sfortuna, perché poteva distrarlo con la musica, per quello l'avevamo mandato su con la performance, cosa che in effetti... Chi è che sta scartando? Chi è? Indovina. Quello che sta mangiando. Croncino. Fai un po' più vicino al microfono, voilà. Ma cos'è? Si sta mangiando dei denti di cinghiale? Che cazzo è? Non se ne accorge neanche. Sto mangiando delle caramelle gommose, ma sto spaccando delle noci con le mani vicino al microfono. Comunque è fastidiosissimo. Fai qualcosa. In realtà solo un pezzo di carta e stavo facendo così per darti. Allora smettila! No, ero io con le noci in realtà. Ah sì? Sì. Non farlo. Provo. Adesso vediamo. Silenzio 1. Guarda che il fratello. Ok, è Giulio. Ecco la merda di Giulio. Della carta del cibo per. Sì, è Giulio. La guerra inizia. C'è due fratelli che si lanciano le noci dalla Germania all'Italia. Comunque, la missione di sfortuna in realtà aveva avuto effetto. Aveva fatto una. Tra l'altro, scusami un attimo, tu sfortuna non potevi caricare, preparare tipo un dispel? L'ho fatto. E non ha interrotto la fuga? Aspetta, allora, faccio finire l'assunto. Non mi ricordavo sta parte. Praticamente non lo vedevo perché c'era una sottile coltre di neve. Vabbè, in realtà questa la potresti raccontare. Che falso catta con sta caccata. Sì. È vero, non lo ricordo. Inizialmente non riuscivamo a vederlo. Ah sì, è vero che abbiamo fatto una gran polemica. È vero che Katta diceva, mentre vuoi lanciarlo una goccia ti passa davanti all'occhio e non lo vedi. Esatto. E fai, ah! Ti si infia l'occhio. Tecnicamente era così. No, sapevamo dov'era ma non lo vedevamo perché offuscato dalle nebbie e dalle piombe. La neve. Non lo vedevi. Comunque, se non sbaglio, allora, Sfortuna è andato su, non lo vedeva per suo fatto, poi però gli fa la performance, lui ci casca, quindi riesce ad arrivare su Patk, però nel momento in cui sgancia Garrosh, poi dopo lui se ne rende e si volatilizza, sostanzialmente. È più veloce di noi. E quindi adesso non sappiamo dove sia. Cioè sappiamo che c'è, ma non sappiamo dove. Bene. Se non sbaglio, era così, no? Detto questo. Dovrebbe essere esatto. Tipo a 20 metri, però il master ha fatto capire che non è più qui. E che il problema di base è che lui poi può scappare quando vuole, perché l'idea per fermarlo era quella sostanzialmente, per evitare che lui tornasse da Strad immediatamente, perché per quanto Strad sa esattamente, esatto, ha una pietra che lo riporta da Strad. Strad sicuramente sa quello che succede, però se riuscivamo a eliminarlo poteva essere una cosa carina. Vediamo se avremo comunque una chance oppure no. Bene. A proposito delle pietre, che cosa vi ricordate? Abbiamo trovato uno specchio per terra anche. Tu hai visto che gli è caduto uno specchio sfortuna? Un piccolo specchietto di quelli che usano le donne per incipriarsi il naso. Che gli deve essere... segno, tra l'altro. È tipo l'origine di tutte le maledizioni, in ogni ambientazione. Madonna, dici. Ma tu, Race, qui non ci sei, Madonna. Perché sei al piano di sotto. Ah, è vero. Sei al piano di sotto. Ci siamo solo io e Candemio, sì. Sfortuna. E sfortuna. E gli altri due erano lì pronti a salire per assaltare il poveretto. E Pac è là che svolazza nella bufera sotto forma di aquila. Quando tra l'altro dai bordi della torre vedete comparire sei creature ectoplasmatiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esatto, che hanno la forma di spettri. Spettri che mi sembra voi abbiate già incrociato in passato. Spettri con le ali! Sono non morti in corpore, i malvagi, che evidentemente qualcosa gli ha, come dire, aizzati contro gli attuali occupanti del torrione del passo di Zolenka. Cosa può essere stato? Ma io intanto sto per bandire di nuovo la musica, quindi che qualcuno la tolga prima che... Basta fare silenzio. Quale musica? C'è una musica di sottofondo. Credo che sia Giulio che parla con sua madre. Se la silenzio io, la silenzio. Mi evita di sentirmi, non mi permette di sentirlo in realtà. È perché tu l'avrai silenzia. Sì, io l'ho messa tipo a 2. L'ho silenziata. Sì, anch'io l'avevo messa a bassa. Io non sento niente. Comunque intanto salutiamo Ambra, che come sempre ci sta seguendo. Ah, grande. E ha diciamo, fatto un paragone tra i pakistani e le rane. E ha anche fatto presente che le donne sono l'origine delle maledizioni della vita. Michela, riferendovi a voi, ha appena detto: stanno giocando a quella cosa, come si chiama, la roba in stile Dracula. Questo ce lo dice Davide Ruini. Michi, ci deludi oggettivamente, ci deludi un po', ma se vuoi interpretare la moglie del master, non so che come... ruolo sia in realtà, però come, scusa, che lo sgrida quando non ci dai punti esperienza. Cioè sempre, esatto. Se mai il contrario, quanti gliene hai dati? No, poi cioè, non c'è. Quel pericolo non c'è in questa campagna. Dobbiamo dircelo apertamente. Questo pericolo non c'è. Andiamo avanti, beh, dai. Chi ha chi sta? Volevo andare a mettere like. Allora, vi volevo proporre una riflessione riguardo a quello che sapete su il metodo di teletrasporto che avete visto, alcuni di voi hanno visto all'opera in più occasioni anche, e che per qualche motivo vi siete tenuti in serbo, nonostante, mi ricordo tempo fa, il buon vecchio Martinkov avesse detto qualcosa del tipo: ah, ma come fanno ad essere sempre nel posto giusto al momento giusto e a muoversi così velocemente? Mi sembra che Giulio gliel'avesse Giulio quello che sta sparendo, che Giulio gliel'avesse... succede? Ah, no, mi spengono le luci così sono qua. Puto! No, credo che Giulio avesse risposto a Martingo spiegando le pietre. Fatti i cazzi tuoi, stronzo! Cioè, in quello non che mi ricordo. Anche perché sono quello che l'ha visto meglio più volte. Cazzo, abbiamo fatto tutte le sidecast che hai voluto. Non rompere. No, ma tipo detto velocemente, sì sì, ha delle pietre che possono portargli vari punti della regione. L'avevo spiegato più o meno. Se era per me, adesso avremmo metà delle città della Barovia. Invece di star lì a fare lo strega, l'ordine, il drago. E il vino. Il vino, esatto. Noi avremo metà Barovia e staremo marciando uniti. Ma come? Stai rinnegando i tuoi amici paladini? No, no, questa è una delle poche cose fighe. Poi siete inutile, però. Allora, che cosa ti ricordi di queste pietruzze? Come tutto quello che abbiamo fatto finora. Giulio? O chi c'era? C'era Giulio, c'era Newton, c'era Einstein. Allora, mi ricordo che... Cosa sta dicendo? Forse Marco. Una citazione un po' colta questa. Lo so. No, c'eravamo io... Laz, sì, c'era Laz. Che comunque potrebbe tornare a giocare con me. Diciamoci la verità. Non so più niente di lui, come sta? Qualcuno l'ha visto? Ho provato a organizzare qualcosa per Halloween, però ha disdetto tipo all'ultimo. Ma perché avevano paura che ci fosse... Cioè, c'è stato tipo un caso al cucchiaio, quindi sono stati tipo tutti in quarantena cautelare per un po'. Ah, ecco. Tra l'altro mi è arrivato il ricordo che mi ero preso paura di Halloween, non mi ricordo di che anno, in cui c'eravamo noi vestiti da Black Bloc che prendevamo sprangate in frigo. Non eravamo vestiti a casa di non eravamo vestiti da Black Bloc. Che bello. Eravamo incappucciati. Lui adesso va a fare la manifestazione in piazza È vero. Olivo ha mantenuto le abitudini. Esatto, tipo io me ne immagino che va lì e fa tipo ai miei tempi distruggevamo il frigo per le strade e tutti, tra l'altro prima di venire da noi lui queste cose non le faceva. Avete risvegliato voi i suoi istinti. Sì, sì. Ma beccato che prendeva sprangate. Fa, ma cosa stai facendo contro quei tornelli? Questi frighi devono finire. Oh, sono i tornelli, SF. Frigoriferi. È vero, cazzo, i tornelli. Che sfruttare. Ok. Ma quanto è bello. Avremo... Potremmo aprire anche una scuola di questa... Vabbè, cioè, vabbè, abbiamo un sacco di... Ok, di... si chiama università, Giulio. No. Ah, giusto. No, no, no. La scuola che abbiamo fatto noi... Ma quella X che cos'è? Il... Cosa? Cos'è quella X che c'è sulla mappa? È un segno che era rimasto l'altra volta. Sì. Hai trovato il tesoro, Vez? Era do... Esatto. Okay, dove era Radi? Allora, che cosa ti ricordi, Atanas, del sistema di teletrasporti? Tutto. Atanas si ricorda tutto. Atanas si ricorda tutto, quindi si ricorda benissimo che c'era questo braciere. Esatto, c'era un braciere con tipo un tot di pietre. C'è un tot di contenitori, adesso mi ricordo esattamente quanti. Tipo 5 o 6. Buona maglia. C'erano 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E sopra di questo c'era una clessidra. E poi c'erano delle pietre. Lui produceva queste pietre, che in pratica, prendendole, e non mi ricordo, ecco, questo non me lo ricordo, se rompendole, buttandole a terra, non facendo cosa... Lì le venivano buttate nel fuoco. Ah, ok. E alla base della clessidra c'era un'incisione. Noi siamo andati anche lì con la pietra, mi pare. Esatto. Per andare là non mi ricordo come Radi avesse fatto. Per andare da Vallacchia lì, non ti ricordi? Sì, non mi ricordo se l'aveva rotta, l'aveva gettata a terra, ma non avete visto chiaramente che cosa faceva, perché l'ha fatto come un po' di sotterfugio. Quello che Atanas cerca con un evidente sforzo, diceva, però... te la rileggerò. Perché chiaramente la memoria d'acciaio di Atanas se la ricorda. Hai sbloccato la descrizione. Descrizione. Questo peggio, è un momento. Vorrei riparlare che per Atanas sta tipo passata una settimana fuori. Infatti. Ed è peggio di una descrizione. È una filastrocca. Però è in rima solo in inglese. Quindi si perderà. Sì. Quindi l'incisione diceva: lancia una pietra, cast a stone into the fire. Sì, anche di più. Violet leads to the mountain spire, orange to the castle peak, red if lore is what you seek, green to where the coffins hide. Indigo to the master bride. Ma che cazzo è la... Blue to ancient magic womb. Yellow to the master tomb. Questo era il tradotto vuol dire. Giuseppe Conte, tradotto però... vuol dire se nella zona arancione tu vuoi andare. Sì, perché... Stai andando per loro devi giocare. Finché un 5 o un 8 non compare. Può muoversi solo verso destinazioni specifiche, tipo una era... Esatto, che sono descritte da questa filastrocca. Sì. Quindi il viola dice, porta alle spire della montagna. L'arancione dice, porta al picco del castello. Il rosso... È quello che vuole De Luca. È se la... La lore, cioè la leggenda, la storia, è quello che cerchi. Il verde è dove si nascondono le bare, coffins. che è quella, esatto, che è quella che avete visto voi da Vallachi. L'indigo, che penso sia il tipo di viola, boh, alla moglie del padrone. Blu, nell'antico ventre, nell'antico, sì, sarebbe la... No, non è utero la parola che sto cercando, ma è... Ma dirò utero. Come, dai, come si dice in italiano? Grembo. Grembo, esatto. Non lo so, della... non sto ascoltando. Dai, Sal, che gran ridicolo. Al grembo, oh, della magia antica. E giallo alla tomba del padrone. Del padrone. Del padrone. Quindi, ah, uno di questi... Indaco. Indaco, grazie. Non li so i colori, mi dispiace, non li ho mai imparati. Quindi uno di questi l'avete già visto e un altro evidentemente è dove siete adesso. Una domanda a Giulio, diciamo. Sì, ma l'indaco è un viola, cioè facciamo come cosa... tra blu e viola, insomma, vabbè, comunque ma... L'altro giorno ho fatto il post di Armani con il Greige, che è un grigio. Salutiamo, salutiamo Armani. Re sicuramente. Esatto, Re Giorgio. The king is born! Comunque... domanda tecnica sulle pietre. Si ritorna anche indietro, ma per forza dallo stesso punto? Cioè, come funziona l'andata e ritorno? Perché all'andata la gettano in un fuoco. Si partono tutti i gialli, poi dopo un po'. Ma e molto il ritorno... cioè, chi c'è fatto, chi c'è stato, lo ha visto. Non ha visto bene che azioni venivano compiute da Radin, però di fatto lui è partito dalla falegnameria, l'officina dove venivano costruite le bare, che è il verde. E da lì, che è il verde, e da lì si è ritrovato nella stanza del braciere dentro il castello. La domanda, se Giulio la intuisce o se lo sa, devi essere per forza nel punto della pietra per tornare indietro. Non lo sappiamo, ma lo possiamo ipotizzare. Potete ipotizzarlo. Cioè, anche perché... Posso fare... tiro un'investigation. Arcana. Io non ce l'ho. Cioè, scusami, però così sembra che le singole pietre riguardino singoli luoghi, no? Capito? Sì, esatto. 22. Per quello chiedevo se anche il ritorno deve essere legato per forza al luogo. Cioè, Sherlock intuisce che funzionano come dei circoli di teletrasporto con dei portali collegati. Ma scusa, quindi, lui non è qua sotto, no? Come funzionano i circoli di teletrasporto? Ovvio! Ci sei passato dentro. È evidente, Watson. È pura deduzione. Elementare, Watson. Esatto, dei circoli di portali, circoli e quindi quello in cui lui è apparso probabilmente è uno di questi. In particolare potete immaginare che sia il viola. Quindi tu ci stai dicendo, Katta, che se noi, invece dice... di volerci riposare, fossimo andati dritti sul ponte, non ce lo beccavamo Radin? Non lo so, magari ve lo beccavate in un altro di questi punti, non lo so, però il discorso è che se noi non facciamo tornare Radin qua sulla torre, su questo bastione, in teoria non si può teletrasportare se il luogo è questo, a meno che lui non raggiunga. Quindi lui deve venire qua, un altro portale. Stavo dicendo, bravo Vardistran, chiaro, vabbè. distruggete tutti i portali. Ah, meno quindi, che noi la non tua... abbiamo. Ah no, però non abbiamo bisogno della pietra per andare. La tua geniale intuizione ti suggerisce che vicino... questo era il è con tutta probabilità il viola che dice l'iscrizione diceva ti porta alle spire della montagna. Ma oltre al verde che avete l'aveva letta Giulio dove scusate sì, nel castello nel, quando si è teletrasportato insieme con le pietre insieme a Race e a Byrne c'era questa iscrizione sì, te lo ricordi bene no mi ricordo che avevamo tradito. Ho capito adesso io minchia buonanotte ok non abbiamo tradito abbiamo fatto tutto questo per avere informazioni utili a questo punto del gioco certo esatto. Non può essere, non puoi contraddirlo. Ha detto non abbiamo tradito Strada. Potrei, però. Abbiamo fatto questo. Però forse è meglio evitare. Ora, altri due colori intuisci che si riferiscono a locazioni dentro al castello. Uno dice alla tomba del padrone, alla sala. Ci sta, se Strad metti che comunque gli scappa forte, giustamente in bagno, sì, esatto. Si va velocemente. È come la macchina di trasporto. Il casino è quando è già occupato. Quel esatto, ne tiene una in bagno e una di fianco alla divano della TV. Al bello, te lo farei io. Esatto. Che schifo. Va bene. Tra l'altro, Rez, hai una casa che tipo tre passi e sei arrivato. Ma può servire, metti che ne so, c'è una partita che inizia e sono lì che mi scappa. Con quella macchina non potrebbe più entrare nella stanza in cui la... Ci vedo. Non posso più? Non potresti più entrare nella stanza in cui la metti, perché la macchina è gigante, quella dei Sims. Perché la macchina dei Sims doveva... Era un armadio. Il trasporto dei Sims. Vabbè. Cioè... Vabbè. Questo... Rimandiamo queste discussioni per una puntata del mio salotto, che potete guardare su WordPress. Ascoltare. Non mi ricordo dove. Ascoltare. Il mio salotto, se googlate il mio salotto lo trovate. Sveglio. Sì, sì. Mettiamo... Danne. Mettiamo in sovraimpressione. Sembra la rana tordo che lancia un topo. Poi la tua intenzione ti suggerisce che, vabbè, oltre a quella che già sapete, che è quella del negozio del falegname delle bare, c'è quest'altra iscrizione misteriosa che dice il colore rosso. Sento male, Kat, ti è finito il microfono in gola. Mi senti male? Ora no. Il colore rosso che è un generico, dai qua se cerchi la conoscenza, la lore, ma la tua memoria viene catturata dalla iscrizione, probabilmente la più emblematica di tutte, che è quella del colore blu, che diceva il ventre dell'antica magia. Mamma. Cos'è stato? Oh, no, c'è cioè il volume, non vedo che sia. No. Quindi se voi siete sulle tracce di questo tempio in cui a però quanto pare la fonte del tempio. E quindi puoi immaginare, puoi intuire che una volta che avete tagliato questa via di fuga di ritorno al povero Radin, la sua unica possibilità di salvezza a questo punto potrebbe essere scappare e raggiungere il portale che lo riporterà a casa all'interno del tempio. Quindi questo vuole anche dire che Strada in... Te le inventi tutte, Catta, per non farci recuperare gli incantesimi, maledetto. Questo no, sicuramente. Tutte te le inventi, tutte. Anche perché dobbiamo correre nella tempesta sul coso, sul ponte. Il punto del cerchio. Oddio, del trasporto, sì. Cioè, è con un punto, cioè tipo coordinata geografica, oppure è proprio deve essere la cima della torre? Fammi pensare se puoi avere notato la risposta a questa domanda. È decisivo, però. Magari parlandone con gli altri che sanno di magia potrebbe essere. Beh, in realtà è decisivo, perché sennò non ci porremmo neanche il problema. Perché non ho capito. Tanto vuoi che ti faccio un bel tiro sul cane? Distruggiamo la torre e cade per 25 piedi ogni volta che ti trasporti. Non ho capito. Ma scusate, non ho capito la domanda di Giulio. Quello che diceva Giulio è, cioè, il luogo dove ti teletrasporti è preciso, cioè è sulla cima del torrione, oppure può essere dentro oppure fuori? O cioè, è una comunque... zona. Diciamo. Esatto. Capito. Sì, cioè, appunto è sì. Cioè, no, credo abbia già risposto. La torre, ma è la torre all'interno della torre. Credo abbia già risposto dicendo che in quel punto. Credo abbia già risposto che è un portale che si crea, quindi è il punto. Però lui chiedeva se lui può averlo capita questa cosa. Se ti ricordi, qua, la prima volta che lo avete preso, lui vi ha portato proprio nel secondo piano del negozio del fabbricante di bare e vi ha fatto stare in un punto preciso della stanza. Quindi se noi diciamo difendiamo sta parte qua, lui non può passare qua e quindi andrà verso il tempio, perché abbiamo capito che quello è più vicino per lui probabilmente. Dato che voi siete venuti in questa zona proprio per cercarlo, perché sapete che sta da queste parti. E gli altri indizi, le altre locazioni, gli altri posti, sono tutti posti molto lontani da qua. Solo che il problema è che lui è molto Però, certo, da buon barbaro, quale sono? Abbiamo attorno a noi delle figure ostili da distruggere. Questo sicuramente. Giusto, gli spettri che quando io mi sono tolto le cuffie. Esatto. Vi dicevo, sono stati richiamati questi ectoplasmi, questi spettri che appaiono intorno a Sfortuna e Garrosh, mentre Vardis, Tranatanas e Reis sono al piano di sotto. Nel frattempo, Patk e chi ha una visuale verso l'esterno nota un certo fermento nel terreno circostante. Cazzo di verde, ancora di merda. Stai guardando le distanze per la palla di fuoco, Sfortuna. Sì. Ok, va bene. Sì, vedete che come sono stati richiamati questi spettri, all'esterno si vede un fermento anche dei vermoni che chiaramente passando sotto il terreno provocano degli smottamenti, sentite dei crolli, sentite soprattutto quelli che sono ai piani più alti, sentite la torre che un pochino traballa. Detto questo, potrei tenere l'iniziativa che avevate prima per comodità. Quanto avevo io? Patk 13, quindi la terrò. Secondo me sarebbe più sensato ritirarla. Iniziativa. Oh, io la mia era buona, però o sbaglio? No, infatti sarebbe meglio la ritirarla. Tua era 19, era altissima. Ragazzi, ormai ha detto che ritiriamo. No, è giusto, era appena tirata. Vez, secondo me è giusto ritirarla, non ha senso mantenerla. Io non c'ero, Vez. Ah, è verde, va giusto. Dai, Vez, ti faccio vendicare, tirala tu la mia. Il tuo 1. Oh, Atanas. Anzi, Giulio, tira la tua. Vez, ho fatto 19. Bravo, Giulio. Vedi, Vez, impara da Giulio. 16 anch'io. 16 di dado più 2 di qualcosa di mio. Non ve lo dico neanche. Qualcosa di mio. Ultimo. 14. Quindi Vezza avevi tirato alto quando non è servito. Vezzino, voleva tenere il suo 19, povero Vezzino, invece ha ritirato un bell'1. L'unica iniziativa alta che ha tirato non è servita a niente. Sì, dai, no, che imbarazzo. Poi scusami, come fa a non essere la stessa iniziativa che stiamo facendo? Sì, infatti, Katta, potevamo tenere la stessa, dai. Cioè, stiamo per combattere gli spettri nello stesso scontro, non è la stessa iniziativa, dai. Se aggiungevi solo la mia, Katta. Io non. Potevamo mantenere quella di Race. Va bene. No, scherzo, non è per Race. 16, giusto? Sì. Vai. Eccoti qua. Ora ci siete tutti. Bene, quindi fortuna. Quindi abbiamo tenuto la stessa o no? Non ho capito. Sì, l'abbiamo tenuto. Facciamo che chi l'ha migliorata, non si sa perché. Facciamo che chi l'ha migliorata l'ha migliorata, chi l'ha peggiorata l'ha peggiorata. Svardistran era il secondo. Sì, però era primo Radi. Sì, però era primo Radi. E quindi vai sfortuna. Allora, ti ricordo che ci sono io, E appunto. Posso mettermi tipo qui dietro questa cannoneggia Radi, dove potrebbe essere? Appunto, mi metto qui vicino allo spettro. Se mio fratello ha solo anche preso un 1% da meno, si porrebbe il problema che c'è un suo compagno. È per quello che, come prima cosa, ho detto ci sono io, perché l'ho immaginato. Ci sono io, ottimo. Anzi, almeno farò dei danni. No, secondo me aspetta un turno per farla, così escono anche gli altri. Fuori. Quel punto che mi ha indicato è su un cornicione del bastione, freddo e scivoloso, e che dà su un precipizio di centinaia di piedi. È il posto migliore. Sei sicuro di volerti mettere lì? No. Vabbè, può stare un passo indietro. Sì, ma non penso fosse. Non... Posso mettermi qua? Sì. A questo punto devo vedere una forma geometrica quanto è grande. Imparate la geometria con Tycoons and Dragons. Quello non lo so, di sicuro le conversioni da piedi a metri non le avrei mai imparate se non fosse stato per... Giulio, non mi ricordo i punti feriti, ero full, coi tiri che avevo fatto, come ero messo. E qua prevedo di perderne un po'. Mancano due. Ah, vabbè, sì. Oh, perfetto. Cioè, questo è 20. Cosa intendi con perfetto, Katta? La disposizione geometrica con cui... Perfetto. 20 piedi di raggio. Io cado, sono ancora per aria, no? Sì, tu stai volando. Ma è una sfera questa. Sì, è una sfera. Ma perché, scusa, sfera. Non la puoi lanciare a distanza? Volando... Aspetta, quanto sta volando in alto, Pat? Abbastanza da non essere coinvolto. Ma scusami, Marco, tu perché deve partire da te? Non puoi farla a distanza? Sì, a distanza. Perché la metti in punto dove sicuramente non c'è? Viola. Sì, ma... Parte da un punto che decide lui. Perché se lo fa in basso... Infatti potresti spostarlo su un bastione. Sì, perché lo deve fare lì, scusa? Tanto non è sicuramente lì Radin. Ragazzi, ma lasciate giocare Marco come vuole lui, se vuole uccidere... Ma è pieno di spettri, almeno gli levo. Spettri? Ma che cazzo ti frega? Ma vai su Radi, ci pensi a noi gli spettri. E dov'è Radi? E faccelo vedere tu. Vediamo se è nel bastione. Asse di difficoltà? 16. Quanto? 16. 16 alla destrezza, quindi? Sì. Sì. Immagino di dover tirare anch'io così. Immagini bene. Ti do un'ispirazione bardica, guarda. Puoi scegliere di fallire. Solo perché sei tu. Forza Garro, scevi da questo muro. Sono buono, hai un D6 in più. Ora gli spettri superano tutti, Scevo lo prende in pieno. No, solo a metà. Catta, io ho un senso del pericolo, cioè ho vantaggio e tiri di destrezza contro cose che vedo, quindi vale stavolta. No. Sì. Una palla di fuoco più o meno la vedi. Sì. Direi che la vedo. Sì, sì, la vedi bene. No, Scevo, perché piove. No, sfortunatamente hai il Radin che è esattamente in mezzo tra te e Marco. Non lo sapevi, però ovviamente non riesci a vedere il traverso. Quindi... Cosa mi dai di ispirazione? Più uno. Un D6 hai detto. Un D6. Vabbè, ho fatto 18, non sto... Vabbè, tiro anche il D6. Un D6. 22. Peccato, non lo passi. 18 sì, ma col D6 l'ha perso. Quindi prendi solo metà dei danni. Molto bene. Esatto. Quindi ho tirato 34, metà 17. Esatto. Sono e loro sono anche resistenti al fuoco. Metà di loro lo passa, metà di loro no. Sei in ira, sì. Avevi già... Stava lanciandomi, sì. Avevo detto lanciandomi. Va bene. Vardistran. Così presto. Va bene, Garrosh. No, va bene, va bene. Quindi è il macello, insomma, ci sono solo sti cosi qua. Tu sei al piano di sotto, quelli di sotto sentono il grido di Garrosh e un attimo di esitazione, di silenzio. Sentite i lamenti degli spettri che arrivano e poi il puzzo di peli di Garrosh bruciati. Esatto, di peli. Ah, niente, salgo su e quindi vedo gli spettri, non vedo Radin e vedo Garrosh mezzo bruciacchiato e... Non vedi più la neve per adesso? Perché c'ho... È tutto bagnato per terra. È terribile. Adesso è diventata una piscina sul tetto. Vabbè, attaccherò uno di sti spettri, che devo fare? Quanti spettri sono rimasti? Ho sentore sono che sei. Questo possa essere da qualche parte. Sono sei. Non hai visto la scena, quindi ti chiedi che cosa sia successo in realtà. Perché era lì un attimo fa. Dov'è? E vabbè, attacco uno spettro, perché è tanto inutile che sia solo a dire dov'è. Sì, catta, sti spettri qua, come l'hanno preso il danno? Come ci sembra che l'abbiano preso? Tre sono riusciti a sopportarlo bene. Altri tre invece hanno la loro, come dire, consistenza ectoplasmatica meno densa. Okay. Hanno comunque preso meno danni di quelli che avrebbero dovuto prendere. Vado su uno di questi. Da che parte vai? Dove sta Garrosh? Dove sta Sfortuna? O in mezzo, lontano da entrambi? Gli spettri sono quelli lì che vedo, giusto? Mm-hmm. Sono praticamente dove stanno le statue. Ok. Tranne due. Quelli che hanno superato, vado un più vicino che vedo un po' più messo peggio, insomma. Ok. Ottima scelta, direi. Oddio. 15. 15. Colpito. Che è? 2 si ritirano, diventa un 1, ottimo. E un terribile 11. Uno si ritira, no? All'infinito. Okay. Vado col secondo attacco, perché immagino che sia ancora vivo. È molto più trasparente, ma è ancora, tra virgolette, vivo. Ti ricordo che il mio spadone è magico. Infatti, li ho segnati tutti. Magico. Orca, questo era un 18 più 11, 29. Direi che colpisce. Mamma. 13 danni. Fatica. Trick. Garrosh. Morto. Però, hai detto Garrosh morto. Garrosh morto. Beh, ma rega, ma questi qua? Ma sti cosi non sono spettri professionisti, sono presi dalla strada. Esatto. sono addestrati. E niente, colpisco. Non è che ho molto da fare. Prego. Vado col mio martellone da guerra, faccio 12. Colpito. Davvero? Ma questo è un Garpelli. Aspetta, ho lo spazio per caricarne uno. Ne hai uno di fianco. Dovresti uscire... Ne hai due di fianco. No. No, allora no. Attacco normalmente. Vabbè. Più 7 perché sono in mira. Full, 15. Danni col primo, poi faccio il secondo. Con cosa che arma stai attaccando? È un martello da guerra. Magico. Non è vero. Quindi 2 di 8, anzi 3 di 8, perché io critico brutale. Mori. Come faccio? Faccio boom, 19 più 7, 26. Bah! Danni. Dai, è morto. Sì. Come faccio a togliere la musica? 15 di prima e 26 di adesso, totale 41. Cioè, sparisce all'istante. Ah, ok. Ah, ok. Ecco così, grazie. Race. Dimmi. Io non vedo un cazzo e non so niente. Tu sei al piano di sotto, hai sentito l'esplosione, Vardistran è salito e ha menato dei fendenti e senti rumori. Dov'è? Esatto. Dalla botola scende un rivolo di acqua dal piano superiore. Beh, salgo. Plup. E a questo punto i tuoi sensi acuti notano uno specchietto lasciato lì per terra, un po' rovinato dall'esplosione. Lo prendo. Ok. Ci sono in questo momento, non c'è nessun nemico in combattimento con un tuo alleato, perché sono stati uccisi tutti quelli che lo erano. Bene, non faccio un cazzo. Puoi preparare l'azione. Ma la mia azione non è prendere lo specchio e guardarlo. Ho già preso lo specchio, è sufficiente per me. Ah, va bene. Patk. Io quanti spettri sono rimasti di quelli lì? 4. Gattro. Vado in picchiata su uno. Ok. E lo attacco. I miei artigli contano come magici. Giusto. Quindi, ma cerca tappa. Radin. Cosa cerco Radin? Sono un'aquila? Appunto. Cosa vuol dire? Cagazzo in giro finché non becco qualcosa che colpisco. No, non sei un piccione, sei una cazzo di aquila. Cioè, guardaci. Cosa vuol dire? Ma non è invisibile. Vabbè, catta, con visione passiva lo vedo, no? La tua visione non ti permette di vedere nel buio, mi temo, da aquila. Che cos'è la visione passiva? Cioè, se chiudi gli occhi... Percezione passiva. Sono passivo. Percezione passiva. Quello cioè, che non mi impegno, lo vedo lì. Esatto. L'abilità segreta di Lasso. Da dove sei, purtroppo, l'illuminazione non ti permette di arrivare più di pochi metri oltre il perimetro della torre. Durante l'esplosione a un certo punto si è illuminato più uno spazio più grande. Hai notato un punto nella neve dove c'è caduto qualcosa e poi una serie di impronte che andavano nell'oscurità verso nord. Dopodiché una fiaccola col becco e vai. Ora. Non smetti di cazzare a un certo punto della giornata. Ho capito, ma proviamo a fermarlo. Comunque, mentre Vez gracchia, io con l'aquila siamo vado giù e attacco gli spettri. Sì, Vez, non lo becco Radine, poi sono un piccione, non è che sono un... Ma tu guarda che anche te puoi fare le robe ad area. Le robe ad area? Sì, ce l'hai della roba ad area. Sì, le scoregge. Cioè sono degli incantesimi di 26esimo livello. Vez, le aquile non possono fare incantesimi. Beh, deaquilizzati. No, adesso io ho la forma selvatica, la uso. Perché posso fare danni magici, sennò poi non li posso fare. Sono un druido. Allora... Cato, attacco uno spettro. Ti bando da sto cosa. Com'è che si attacco fa? Uno spettro a colpi di beccate e colpi d'ala. Vai. Posso fare magia? Però non ho il profilo dell'aquila. Sì. Che cosa ti serve sapere? Più 5 a colpire. Col tira, becco Dio. E con i talloni. Quanti attacchi ho in totale? Fai due attacchi, uno col becco e uno con gli artigli. Il becco fa un D6 più 3 e gli artigli 2 D6 più 3. Col becco... Merda, Giulio, shottali. Critta. Col becco ho fatto 3, con gli artigli 14. No, più 5, Giulio, mi fate fare 3. Gli artigli colpiscono. Più 5, 8 e 19. Gli artigli colpiscono, quindi sono 2 D6 più 3. Sì. Dai, Giulio. Pure quello. Mi piace questa modalità passiva. Vabbè, Giulio, hai dadi. 10. 10 più 3. 13. Più 3, 13. Ok. Bravo, Giulio. Sono danni magici. Intensità ectoplasmatica è molto fievole, ma è ancora in mezzo a noi. E poi Katta, finisco il resto del movimento per tornare indietro. Vuoi prenderti l'attacco d'opportunità? No, è il mio round. Dovresti disingaggiare per non prendere. Posso disingaggiare? È un'azione che tu hai usato per attaccare. Ma io sono... È un'aquila rogue la mia, ce l'ha come azione bonus. Scusa, non lo sapevo. No, beh, allora gli sto in corpo a corpo. Atanas. Quanta vita ho, Giulio, d'aquila io? Full, l'aquila... no? 26. Sono full, dico. Hai 26. Ok. Atanas, il tuo ingegno... La forma selvatica combatte in corpo a corpo da aquila. Beh, druido standard. Sono appena ritornato dal flash. All'agat. E esco e picchio la prima cosa che vedo davanti. Ok. Garrosh. No, sarebbero Vardi o Vardi Strano Race, però penso intenda questo. Vardi, ok, Race. No, uno degli spettri magari non già attacca. Faccio due critici e 10 più 9, 19. Ho fatto 20, 19, 10 di dado. Non male. Ma non basterà. Quindi... Sono un po' sprecati questi attacchi su uno. Sono 10, 18. Lui il tiro. 18, 22, 23, 33, 38. Ok. Muore. Dovrebbe vedere. Plup. E ora tocca a loro. Mi risulta ce l'abbia solo argentata. Allora. Sì, sono una spada argentata. Che tra l'altro non sto usando perché sto usando le mie spade. Qui. Spectre. Lo spettro usa il suo succhiavita. Vediamo se colpisce Patk. 15 a colpire. No. L'aquila 13. Quindi non colpisce. Allora, ti infligge 10 danni necrotici No. E il bersaglio deve fare una prova di costituzione, tiro salvezza di costituzione. A più uno di costituzione. No, io ho anche la proficiency. E altrimenti di questa quantità ti vengono ridotti i punti ferita massimi. Ma dell'Aquila? Sì. Immagino dell'Aquila. Vai Giulio, è il momento di fare un bel 20 col D20. Beh, faccio io, tiro io. Guarda quanto si fida poco. No, scherzo, vai Giulio. Ho fatto 8, mi spiace. Più la costituzione dell'Aquila, 16. Cazzo di Aquila. È un pollo da batteria pieno di ormoni che lo ingrassano per il ringraziamento. Cos'è, un tiro? Una svettata con la carne di... Un'aquila riempita a germi miei. Garrosh, uno spettro ti colpisce e ti succhia ben 14 punti ferita. Fai un tiro salvezza sulla costituzione, ma per te immagino sia una formalità. 1 20. Bene. Sì, posso sempre fare uno di dado. Sfortuna, uno spettro ti arriva addosso e inciampa in qualche modo, perché è ectoplasmatico, ma inciampa lo stesso e non ti colpisce. Il vento che risposta. Esatto. E Sfortuna, tocca proprio a te. Ma che danni? Allora, Miro, che danni ci fanno? Necrotici. Quindi non li dimetto. Miro i due spettri che sono lontano da me e faccio un Eldritch Blast a testa. Hai svantaggio avendo un nemico di fianco. Il quando svantaggio ti... è se miro al mio. No, in generale. Tu mira qualcosa e un nemico entro 5 piedi, hai svantaggio ai tiri a distanza. Spara, ma spara quello che è vicino a te. Avrebbe svantaggio comunque. Beh, svantaggio per svantaggio, non trovare. Ma fai una palla di fuoco! Ma sì, così fuoco. Come... ci siete tutti lì. No, facciamo oltre, basti. Oltre, prova a prendere sto Radin. Ma non lo vedo mica. Ma che te ne frega, spara avanti. Ma quanto buona vez di dire a tutti quanti di seguire Radin solo perché te ne vedi una fava. Cercalo te. Ma infatti adesso se qualcuno mi caga io lo vado a cercare. Cosa vuol dire? Cercalo. Nel tuo turno se li chiedi. Io non sono neanche andato a nord. Solo... Io sono andato dicendo dov'è, tutti muti ovviamente, che cazzo ne so. dov'è? Che sei lì con la clava che ti colpi in testa gli spettri. No, dov'è, ho capito. Io sto dicendo dov'è e te che lo vedi fai, ah sì, boh, in fondo non ci interessa. Non lo vedo io, Vez. L'altro lui è io un non ho idea. Non lo vede nessuno. Tu non capisci, ma io sto facendo... Non ci avete neanche provato. Che vuol dire? Dov'è? Eh beh, Vez, cosa possiamo fare per vederlo? No, io, te e Giulio, niente. Ma è un tiro di percezione? No. Per dire... Ascolta, non vedevamo uno nel mio, sullo stesso pianerottolo. Io, Vez, ho visto dov'è diretto. Che cazzo ci fa vedere Radi? È notte in questo momento, quindi... hai visto? Quindi si fa vedere uno a 50 metri dopo che non vedevamo uno davanti a noi. No, però sì, se c'è prima... direzione, la cazzo di palla di fuoco la può sparare lì. Prima cazzo che non vedevo direzione? Perché avevo l'aria davanti agli occhi. No, ok, è chiaro che se nessuno dice niente a nessuno è ovvio che non lo sappiamo. Vai. Ma anche l'Aquila non è che può dire molto. Sfortuna, cosa non fai? Sapendo niente faccio esatto, due Eldritch Blast contro quello che ho addosso. Con svantaggio. Vai. Uno è 26, l'altro è 24. Alla faccia dello svantaggio. No, no, 26, vabbè, lo vedi, 26, 27, 24, 25. Sti cazzi, che tiri. 19, 18, 17, allora, Marco, 16. Facciamo che me li tiri tu quelli che... dopo, Marco. Esatto. Hai visto i meme, le vignette? Beh, il bot, Esatto. Marco, stai usando il programma che ho scritto io. 10 e 12. Ok, 10 e 12 viene vaporizzato. E l'altro colpisce Radi? No? Questo era sfortuna. Fardistran. Niente, riprovo a chiedere, solito chiedo direttamente. Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è andato quel maledetto? Cos'è? Cos'è? Era siccome immagino che dovrò aspettare un altro turno, e intanto attaccherò quello che è da lui. Che falso. Ah no, ma non... ah, no, lui ha colpito il suo. Alla fine, non gli altri. Vabbè, quello davanti va bene, uguale. Qualsiasi. 19. Colpito. Dove? 19 danni anche. Fai un bello squarcio. 17 a colpire. Non so perché mi ha sparato a un volume devastante. Mi ha ucciso i timpani. E 18 danni. Lo bandisci da questo piano d'esistenza. Ne rimane uno solo, Garrosh. Vai mo a cercare. Se radio, qualcuno me lo dice, volentieri. Ma cosa vuol dire? Vez. Se vuoi cercarlo, vai. Cosa vuol dire? Sei grande e maturo. Non lo so, eravate voi fuori. Io che cazzo ne so che ero lì sotto. 11 è poco? Poco. Sì. Secondo attacco 19, quindi stavolta lo prendo, però faccio poco 7 danni sul... è ancora vivo, a meno che, aspetta, era sempre quello o... no, un altro race. Aspetta, avevo lo spazio. Sparo, per caricarlo, tiro, fuoco. Sì, avevi lo spazio per caricarlo, ma adesso race lo uccide prima. Che no, ironia. Finisco il mio attacco. Cosa che Arcane Trickster. Ma non ho finito il mio 18 attacco. Di dado. Colpito. Sono inutili. Soffrono sneak attack. Sì, perché nel nuovo lo soffrono, vero? Tutti soffrono sneak attack. Che ironia. Che ironia. Che ironia. In realtà solo perché catta una predilezione per ladri, assassini e bardi. Non è sì, tranne la mia aquila assassina che non può disingaggiare. 28. Ma non è male. 28 sì, malamagico. Aveva un PF sal, anche con uno sputo moriva. Ma uno spito forse no. Una volta gli sputiamo. Cool. Allora. COVID. Comunque in teoria qui quello che ho fatto per ultimo era il mio attacco extra che faceva 5 danni in più, quindi in teoria l'ho ucciso io. Niente. Ora per rispondervi questa campagna. Sono morti tutti, catta gli spettri. Sono morti tutti. La situazione è la seguente. Adesso vi riporto al piano terra, nonostante voi siate ancora al primo piano, all'ultimo piano, così vedete anche la mappa. Faccio un bel tiro di perception, catta, prima che Vez mi ammazzi. Sì. È una saggia decisione. No, io chiedo che cosa è successo. Vedi Vez che ti sta per sparare. Ok, no, e che in realtà qua ci sono tre persone che sanno delle cose e non te le voglio dire. No. Non le dicono. Falso. Due persone. Adesso che abbiamo finito il combattimento, ti dico è sparito. Ecco, no, tu non sai quasi un cazzo. In realtà è sparito. Non è qui. Vabbè, ok, qua c'è tre persone. Facciamo quattro persone che sanno. Io non sono una persona. Sparire no. Davanti al mio nome. Voi due tutti avete visto che cazzo è successo. Lui ha visto dove. Arci ha visto dove cazzo è andato e Giulio. Sa la cosa, ma nessuno fa. Io non so niente, beh. No, tutti tu sei l'unico che. Vez, non puoi è in buona fede. Vez, non puoi giocare sempre da metagame comunque. Quindi. No, no, infatti io infatti non fuoco, faccio metagame perché non posso fare nulla. Io vi chiedo cose, voi. Oh, dai. Vabbè, giochiamola, siamo lì sul torrione. Abbiamo. Io dopo che sono morti tutti, da Aquila, volo sulle impronte che mi diceva Catta e faccio. Le aiuto. Dove sei tu? Patk qua. Le impronte le hai viste in questa zona. Qui da quando le hai viste la prima volta sì, era un breve... round fa, Catta, non è che passano esatto. Due ore. Il seppur breve in 6 secondi. Esatto. Non è che adesso vedere breve... un'autostrada di impronte, cioè... Il seppur breve periodo in cui che sei messo ad arrivare nel punto che avevi visto prima... Cioè, tanto, lo sta per dire, lo sta per dire... Il vascello volante. Sì, cioè... sì, lo sta per dire. No. Cioè, non nevicava. Prima però che adesso... Cioè... nella stagione, no, vedi che nella stagione il... ci ha messo ad arrivare. No, appunto dico, nel breve tempo, nonostante sia tu sia molto veloce, il terreno in quel punto, come in tutti gli altri punti, è cambiato di conformazione. Adesso ci sono anche i movimenti delle placche. Adesso c'è la foresta pluviale, c'è la foresta pluviale. Ma hai detto, Arce, hai detto neve? Forse volevi, ragazzi, dire sole. No, ragazzi, però non prendete in giro, cioè è il riscaldamento globale. Sì, sì. È una cosa, vediamo, seria. Vediamo il fossile di Radin. No, vedi che il terreno viene, è continuamente smottato dal passaggio di qualcosa di grosso sottoterra. C'è zona tropicale. Vabbè, però hai comunque capito la direzione, vai in quella direzione. Sì, comunque lo indico. Quindi cosa è successo? Sostanzialmente, sentite l'aquila che aquileggia, come il verso della... Cosa è successo? Dov'è finito? Indigo. Gli sono caduto davanti, ma poi è scomparso con un incantesimo. In una nebbiolina d'argento. Si è teletrasportato, quindi. In una nebbiolina d'argento, sì. Quanta vita ho io, Giulio? Quindi sì, l'abbiamo perso. Vabbè, forse... Vardi, quando lui ti dice nebbiolina d'argento, tu fai 2+2 perché anche tu hai quell'incantesimo. Misty Step. Esatto. Non può essere lontano, possiamo inseguirlo. Io dico, forse Patka ha visto qualcosa. No, in realtà io non so nulla di teletrasporto, quindi dico, si sarà andato a teletrasportare da qualche altra parte. Io forse so dove è diretto. Ma la Misty Step non ha mica un range così ampio, no? No, infatti... Va a 20 piedi. Lui intuisci che la... Dove è diretto. L'ha fatto giusto per uscire dalla torre e poi è andato via piedone. Catta, io dopo che sento questi discorsi qua, svolazzo un po' più in alto per vedere dall'alto se riesco a capire meglio. O più mi alzo, meno vedo. Esatto. È buio, c'è una bufera di neve in questo momento. Di notte le aquile non è che vedono meglio. Il discorso è che potremmo seguirlo, ma è pieno di vermi. È cambiata. A proposito. Intanto Atanas stava dicendo è pieno di vermi giganti, c'è una anche Radi non è che cercherà un posto per passare, immagino, perché non... va bene che ma forse a meno che non controlli i vermoni col flauto, i vermi, esatto, no, Giulio, dove c'è Radin adesso c'è il sole, c'è il terreno secco, togliamo magari il fatto che i vermi per lui non siano incredibile per lui, cioè. Non è che sta censurando. Esatto. Quella, perché quel di Radi, perché quando quel d'altra parte quella di sua madre, se lo ascolti al contrario, ha detto viva Strad, però ha perso la stop the count. Laggavo male. Un pochetto. Un po'. Prova magari quando parli a togliere il video. Magari migliora. No, ma è successo solo stavolta. Sono anche più vicino alla connessione solita. Comunque, dicevo che anche se magari vermo... Non vuol dire... Giulio non può parlare. Anche se hai cagato il microfono. Appena vermoni... dice la parola vermi, glielo censura. Giulio, perché prova a dire tipo lombrichi. Prova a dire lombrichi. Magari lombrichi non sono un problema. Infatti, prova anche problema, non ci piace, prova a dire inconveniente. Esatto, imprevisto. Davvero, prova a togliere il video quando parli. Il problema è la bufera, comunque. Sì, quello che vuole dire è che anche Radi avrà problemi sotto la bufera di neve. Esatto, questo. E non sarà l'unico, perché sentite un fragoroso fragore. E venire alle basi del pendio come una frana. Secondo me faremo in questo punto tipo 8 sessioni di scontri in loop. No, uno solo, Giulio, non due. Grossi massi di pietra si staccano da questo dove freehand, se faccio così, esatto, da questo pendio, e delle grosse crepe si formano sui muri e sul pavimento. Beh, certo, io scenderei. Di avamposto eretto per chissà quante migliaia di anni. Esatto. Già. Esatto. Cosa è cambiato? Che adesso dobbiamo fare uno scontro con un altro vermone. Giulio, non hai capito che il mio round di 6 secondi in realtà sono migliaia di anni? Non sono più i vermoni, sono proprio le placche direttamente che sono aperte. Esatto. Dove, tra l'altro, dove da noi c'è la neve, da Radin probabilmente ci sono tipo i solchi nel terreno secco, il sole che spacca le pietre. Sì, no, sì, ed è giorno. Esatto. Alla pista di terra rossa, quella per i 100 metristi. Beh, senza, forse, senza stacco. È tutto deserto. Forse qua puoi comprare un cammello. Sì. Va bene. E quindi Katta? Quindi Atanas, cosa fai? Io avevo detto forse so dove è diretto. Ah, è vero. Ah, dove è diretto? E mentre sento questo, cioè, sta crollando tutto. Sì. Mentre dico questo, sta crollando tutto. Quindi dillo in fretta. No, e quindi dico, vabbè, ne ripartiamo. Cosa? Invece che dire è andato di là, dice, perché so dove è andato, ma sì, sì, io non so la direzione dove è andato, io so dove è il posto, okay, in cui è andato. Ah, l'intuizione di prima, hai ragione. E dovrei farvi tutta la storia delle pietre. Sì, sì, sì, hai ragione. No, dai, scendiamo. Hai il dono della sintesi, dai. Se non abbiamo mica un round di Radin. Cioè, se mi sta crollando la casa, non... cioè, d'ora in poi invece che dire era geologico, poi... d'ora in poi Radi diventa un come si dice, un'unità di tempo. Poi sono passati due Radi, o al massimo dico probabilmente al tempio, ma adesso la rotta, okay, di Kessel. Va bene, Atanas fa per... esce correndo. Sfortuna, cosa fai? Lo insegue. Lo insegue. Ah, fai la scala di terra per scendere. Vardis... corro uscendo. Vardistan va. Garrosh. Idem. Magari io posso correre lungo la parete esterna, così faccio prima. Sì. Ma giusto, avrei potuto saltare giù, però vabbè. Race. Scendo. Ok. Patk. Li seguo dall'alto. Ok. Siete fuori dalla torre. La bufera sbuffa intorno a voi e continuate a sentire dei crolli venire dalla parete di roccia. Ah no, aspetta, Katta. Io posso abbassarmi e fare un perception per vedere se becco dove prima ho guardato le impronte per capire se lo becco? Puoi fare un survival. Adesso c'è un burrone lì. Posso dove fare un tempo un... c'era la strada. Sopravvivenza. Se nel caso trovi suo figlio. Oh, okay. Il Gran Canyon. Vai, Salla. Esatto. Salla. Cosa devo fare? Bis nipote. Un grande oceano. Non so se ti conviene. 12. No. 12 di dado più... 12. Sopravvivenza dell'aquila quant'è? Praticamente noti le onde dell'oceano là dove un tempo... Ma l'aquila avrà tipo vantaggio, perception avrà... ma no, sopravvivenza. Ma il perception che si basa sulla vista. E quindi sopravvivenza fai, passi le impronte con le zampe, eh? Sì. Oh, magari annusa, non lo so. Ma no, mi hai fatto tirare comunque... sopravvivenza te, non perception. Sì. Allora non è perception. Vabbè, comunque saggezza ha più 2, quindi più 2. Saggezza 4... è quella di Arci però, Sì. Che più 3. Ah, scusa, hai ragione. Quindi 15. 15. Okay, però anche riesci... io ho anche la come si chiama? La proficiency, sì. Conta, sì. O no? Quindi 19. 19. Perfetto. Noti che nonostante gli smottamenti ci sono delle tracce che vanno verso nord e noti una cosa particolare, ovvero che sono estremamente irregolari. Okay. Non sono le tracce di una persona che cammina o corre regolarmente in maniera coordinata, tra virgolette. Sono come un po' qua e un po' là, come se si muovesse in una maniera particolare. Sta scappando uno spastico, praticamente. Praticamente. Io lo indico. Ma nel senso che ci sono tipo degli intervalli E poi due o tre impronte, sì. Un altro intervallo. Ogni tanto ci vedi punto. Una mano, ogni tanto una faccia, ogni tanto un piede. Esatto. No, nel senso che magari, esatto. No, nel senso che usa Misty Step e poi corre Misty Step, magari lo usa più volte, o è semplicemente in maniera regolare il modo in cui si muove? No, banalmente può essere il fatto che usi volutamente un modo di procedere irregolare, faccia tipo un salto da una parte, un salto dall'altra, come se avesse particolare cura di non andare con un'andatura regolare. Detto questo, la terra sotto i vostri piedi trema come faceva quando avete avuto il primo incontro. Come faceva nell'era in cui... Forse... Mezzozoico. Che cosa fate? Forse lui correva in maniera strana proprio per evitare i vermi. Ah, catta... Sfortuna. Catta, io lo indico questa roba, cioè, attiro l'attenzione del gruppo per fargli vedere queste cose. Arrivano le aquile. Però la parete sta ancora... franando, cioè sta cazzo di torre sta venendo. Okay. Sfortuna, cosa fai? Vedo che l'acqua che l'aquila indica. Indico. Senti indico. L'aquila che fa dei versi. No, io indico anche con le zampe, l'aquila. Così. Mentre voli? Sì. Tirami un destrezza. Equilibrio. Dov'è il regello? Qua. No. Questo è il regello? C'è il regalo. Sì. Mi misuro il cazzo, ovviamente. Per cosa mi dovrebbe... Allora. Dov'è lo scolapasta? Cosa dovrebbe allora, servire il regalo? Qua dove un tempo c'era la strada. Ora... Se è troppo lontano uso anche la mia azione per scattare. Dune di sabbia intervallate a foreste. Più che per scattare, io adesso ti ho mosso del tuo movimento. E, con la tua azione intendi andare dritto normalmente o intendi fare altre cose? Dove c'è l'attiva. Se l'aquila è davanti a me, vado dritto. È come se Radi sapeste. Ma d'altra parte, se noi andiamo dritti... Oh! Cacchio! Cresciato io. Brutta storia per la diretta. Sì, signore. Purtroppo i nostri amici ci hanno abbandonato. Scemo, metto una mia foto mentre sbadiglio. E sono bloccato lì, credo. Arci? No, non mi sento. Ragazzi, che dire... Oggi abbiamo pubblicato l'episodio 55 della Maledizione di Catta, che quindi presto troverete anche sul podcast di RGDR. Nel frattempo io provo a uscire da qui e a rientrare a questo punto. Facciamo questo tentativo disperato. Vediamo. Vediamo cosa succede. Crashing. Se pare che ci siano dei gran casini. Chissà se sono solo io. Così. Va bene. Vediamo se torno in diretta o meno, chissà che cosa starà succedendo, perché qui ovviamente non essendo ovviamente in diretta con gli altri, chissà cosa sta succedendo. Però al tempo stesso avete la sfortuna che, se ovviamente, e non è quella di Marco Bosi, ovviamente, se io ho dei problemi, ovviamente non possiamo seguire l'avanzamento della diretta. Allora, beh, non mi si vede perché non funziona Discord, molto semplicemente. Ambra. E queste sono le segnalazioni che mi vengono. Però adesso proviamo a richiudere Discord, a rientrare. Vediamo se questo sortisce qualche effetto, anche se prima non aveva, diciamo, ottenuto grandi risultati. Proviamo. Non raggiungere. Non raggiungere. Chissà perché non va agli altri. Sì. Sì, so. Sei stato disconnesso. Tieni forte. Ma quindi voi andate, cioè tutto normale, perché in realtà comunque internet va, perché comunque sto continuando a trasmettere in solitaria. Oh, bello questo. Non sono, eccoci, WhatsApp. Grande, ecco, sono tornato. Ecco. Abbiamo appena ucciso Radi. Ecco. Sì, grande, bravi. No. Senza averlo detto. Dov'era? Siamo saliti di livello. Beh. Quello so che non è vero. No, vabbè, stava prima Vardistran, allora, visto che è arrivato in tempo, tocca a lui. Ah, quindi tutta sfortuna fa tutta sta roba, bravo. Quindi Marco è andato avanti, ho capito bene? Marco è andato avanti, è corso dritto, e dietro di lui è stato inseguito da questo vermone che l'intuito dei tuoi compagni hanno capito che sono in grado di percepire quando c'è un tipo di vibrazione regolare per individuare le loro prede. Ah, quindi per ovviamente i compagni hanno condiviso questa informazione. Vabbè, infatti, però sta attaccando Marco sostanzialmente, sto vergone. Lo stai inseguendo? Gli è arrivato addosso, ma non è riuscito ad attaccarlo. E ora tocca a te. Marco ha anche urlato, muovetevi in modo irregolare, ha proprio detto. Quindi... Eh sì, ma tanto è già lì. Per lui, però dice a noi di muoverci in maniera irregolare. Ma che non lo vado a fare, ora... non vado a provare a aiutarlo, vado, dai. Puoi andarci, ma in maniera irregolare. Basta che non corri. Vado lì l'attacco. Arsi sta morendo. Vado lì l'attacco, dai. Madonna. 17. Terribile. Colpito. Molto italiano, Vez. Vabbè, usiamo uno smite. Salma, tu l'avete visto molto bonus il film con questi, di Boris, vero? Il film, sì, quello... Certo. Com'è, è bello? Sì, è bello. Sono non morti. Quindi un di... Adesso appena finisco la terza stagione guardo il film. 8 in più. E che buon vino. Ok. Allora, guarda, uso un... Non hai ancora guardato Boris. Ah. Hai finito di guardare Boris. E manca la terza. Quanto avevi fatto per colpire? Ieri. No, 17. Terza colpire. Bella solo alla fine, però. Allora, va bene. Che mi vuoi informare? Sì. Vabbè, le prime due sono devastanti. Perché l'hai preso proprio al pelo. Allora, vediamo un po'. Glauco. 13... Era la scena che avevo messo l'altra volta a spaccare. 19, 22, 29 danni. Vado col secondo attacco. Orca. 15, tiro sempre peggio. Nada. 29 più 15? No, 15 era per colpire, 29 sono i danni. Ah, ok. Bueno. Questo era Vardistran, Garrosh. Vedendo che lui si muove in maniera dritta e non attira altri, carico. Ho perso l'ira o... Io comunque perché non riesco più a vedere il tuo schermo, Kat, però vabbè, poco meno. Ho perso l'ira? Ancora. Il mio schermo vuol dire la mia faccia. No, noi lo vediamo. Vedo. No, la mappa. Ah, allora. Cioè lo vedo, o meglio, lo vedo piccolo ma non grande, non riesco a ingrandirlo. Cliccalo. Ah, ma non riesco. Non riesco. Sì, grazie Marco, proprio quello il discorso. Comunque non riesco in effetti a ingrandire nessuno di voi. C'è qualche problema. Prima lo vedevi meglio. Beh, guarda, Vez, così, e impicciolisco così. Boh, non so, sì, ha qualche problema, chi lo sa. Catta, la mia ira è rimasta o... Sì, è rimasta. Ottimo, allora carico. 20. Colpito. No. Oh, magari sì. 13 danni, faccio l'attacco extra. No, fumble. 1. Ma va, culo. E il mio secondo attacco di nuovo 20. E sono 4 più 7, 11 danni. Che palle, l'attacco extra. 8-1. Quindi in totale? E erano 13 più 11, 24. 24. Ok, questo era Garrosh. Race. Mi avvicino poco e sparo. Tipo metà tipo movimento, qua. Sì, anche meno. E sparo. E però faccio critico. Arcane Trickster. Allora, sono 2 di 8. E... Allora, 25, 38, 46, 51. Sti cazzi, bravo. È una balista, non è una palestra. Esatto. Tirate! Il trabucco! È scattato l'inferno. Ora è tipo la... È tipo morto! La fionda di... Porca troia, si è beccato 100 danni. L'ha swanshottato, bam, nell'occhio! Chi è? Cazzo, potevi dirmelo, non lo usavo. Il... No. Salla è proprio come... Questa velocità diventa una sorta di mega portone che lo squarcia da una parte all'altra. È stato vero, è proprio come... È proprio come... Perché la... Di sua madre! Vabbè, rega, easy, seguiamo il tizio. Sì. Però va non bene, lo so, io mi... è perfetto, Radi va in zigzag, noi andiamo dritti, i vermoni arrivano, Salla li uccide e noi proseguiamo. Sì, no, proseguirei in maniera irregolare per non attirarne altri. Al ponte! Sincopata! Esatto. Garrosh, te ne spunta uno di fianco e prova a morderti, ma manca il bersaglio. Vai irregolare, perché non sei andato abbastanza irregolare. Ecco, ora possiamo andare irregolari, se vogliamo. Ora sì. Comunque dicevo che la freccia di Al-Salai. È perché ha usato la fionda di Calbus, è per quello. La freccia di Race come parte diventa tipo velocità superluminale, si trasforma in una sorta di mega boltone che trapassa il verme che viene disintegrato. È un anime. Esatto, è esattamente un anime. Garrosh, lui ritorna dentro la terra, se vuoi un attacco di opportunità. Ah, ma davvero ne è sbucato un altro? Sì, è ho capito, Marco ti ha detto andate in modo irregolare, tu non ci sei andato. Invece sì. Hai allora detto forse... carico, che cazzo dici? Sì, aspetta. Ma in modo irregolare. carico a zigzag. Carico in maniera regolare. Ah, la mia carica l'ha attirato. Hai capito, eh? Vabbè, ovvio, anch'io ero andato dritto, però che vuol dire? Mancato. 12 al colpire. Non mi... Mancato, Pat. Che inizia a fare il volo regolare. Vai a pescare radi, ti trasformi in orso e lo mangi. Prova per questa cosa. Ok, cosa fai quindi? Vado a pescare un orso, mi trasformo in radi, lo mangio. Ok. No. No, allora, volo verso di radi. Sì, arci. Quindi voli radi, cioè nel senso che... Sì, bravo. Dal comunismo. Catta? Sì. Radi, a che distanza è da me? Non hai idea, è notte. Non potevi trasformarti in un cazzo di gufo. Ma anche se fosse prima, giorno, prima sì, quindi non lo vedi. No? Prima stavo trasportando Sceo, quindi ero un Boeing 747, se mi trasformavo in un gufo. Gigante, sì. Sì, adesso il gufo gigante fa merda al cazzo. Perché? È che ogni round cambia il giorno e la notte. Quindi... Sì, esatto. Ma Kata, lo vedo Radin? Si è accecato dal sole, Arci. Adesso lo vedo. Adesso lo vedi? Tra le varie... tra le onde non riesci a distinguerlo. Cosa puoi dire dentro tipo le dune di sabbia dove ti sei incastrato? Un po ha le ali congelate, Arci. Cosa è un po' gigante, comunque. Comunque, Kata, più o meno a che distanza penso che sia? Seguendo la zigzagatura di Disceo. Sì, a visione al buio 36 metri. Cazzo, vai, quella la via. Una stima per cui può avere fatto normalmente un centinaio di piedi. Comunque, fare... Catta, invece di dirmi ste latinorum, una cosa. Radin adesso è visibile, ma io non lo vedo perché è buio, giusto? Tra l'altro non ha quindi delle caratteristiche. Quindi non è visibile. Sì, nel senso, non è trasformato, invisibile o... No, la sua abilità nevica, quindi non lo puoi vedere. Vabbè, dai, divento un gufo. Il gufo gigante vede al buio. Sì, visione al buio 36 metri. E tra l'altro, non ha neanche delle caratteristiche tanto diverse dall'Artila, se non che addirittura non provoca attacchi di opportunità. Sì, serve il pistrello. Hai mai visto il gufo? È cioccoso. Se un druido diventa un gufo, però... sembra froce. Vabbè, comunque, a 19 punti ferita. Alla fine non ci dissociamo da questo messaggio. Vabbè, Catta, io divento nano, precipito urlando, poi divento gufo. Gigante. Specifiche. Sì, gigante. Perché se sei un gufo normale hai un punto ferito. Sarebbe sì, divertente. Sì, chiaro. Divento un gufo normale, ovviamente. E... che come minimo appena divento gufo comincio a grandinare qua in questo mondo e muoio. Adesso c'è il sole, quindi non c'è di una sega. Esatto. Potresti fare il granchio ha visione cieca a 9 metri. Io ci penserei. Sì, poi divento sushi però in caduta. Comunque Catta, ma Catta è bloccato. Io vi sento. Però perché non rispondi? Come non rispondi? Perché non stai dicendo niente. È 3 ore che ti chiamo, dico Catta, cazzo, sono un cieco, sì, sono un gufo che vedo a visione cieca. Mi avvicino da gufo gigante. Vedo il buio. Allora, andiamo a prendere il gufo gigante. A visione, te lo dico io, a visione al buio 36 metri. Di quanto si muove? Sì, ma il problema è sempre lo stesso. 18 metri, a me me lo dai in metri, 18 metri. Esattamente. Tipo 60 piedi. A piedi un quadretto a turno. Se cammina. Ci mette a un metro e mezzo, ci mette 6 secondi. Allora. Immagino Kat che fa. Erano le 6 di mattina, ora sorge il sole. Vai a dormire. In realtà non siamo lontanissimi dall'alba, quindi zitto perché può succedere. Insomma. Ah, guarda, infrango il coprifuoco e vado a casa di Kat. Dai che... ho tolto piedi comunque. Grazie. Ho tolto il video perché altrimenti qua... Tanto Kat è uguale, non parli comunque. No, è che non mi funziona, mi funziona male tutto. Anche la bocca. No, che due maroni. Quindi tu fai 60 piedi in qua. Ok. Sì, ma voglio anche tirare su, cioè devo anche guardare, Kat. Quanto ho percezione, il gufo? Ho capito. Gigante? Ovviamente hai vantaggio e hai tu più 5. Hai vantaggio su wisdom, perception, su vista e udito. Oh, mi piace. Vai, chi vuol tirare? Chi se la sente? Marco, vuoi tirare tu? Che hai fatto prima 24 e 28 con vantaggio. Appunto, perché prima ho fatto 24 e 28, non dovrei più tirare. Vai, te lo tiro io. Vai, scemo. 120 piedi. Passivo. 11 più 5, 16. Hai fatto con vantaggio? No, non fare con vantaggio. Hai ragione. Perché ah, no, di non fare con vantaggio, perché Kat no? Perché avrà svantaggio per la bufera. Di sua madre. Vabbè, insomma, ho fatto 16. No, aspetta, io sulla saggezza ho anche la cosa. Non c'entra. Hai ragione, uso la... non lo so, però se quella del gufo è più alta, non usi quella del gufo. A 120 di Dark Vision. Kat? No, io in teoria di per sé... Cioè, io ho il più 4 di proficiency e il più 3 di saggezza, quindi ho un più 7. Quindi hai il più 7, allora è 18. Non ho capito, ho perso il turno oppure siamo ancora il turno? No, è sempre quello di Arci. Ah, ok. Ok, hai fatto... Sì, è quello 18. Di Arci perché Kat sta FK con la saliva alla bocca. 18, 18, 18, 18. Perché dici sempre 18? 19, 19, 19. È morto, basta. Che strano. È ancora una puntata del podcast. Delicatissimo. Ma è raccata veramente. Qua si fa giorno anche nella vita reale. Cioè... Arrivo, devo trovare le benedette statistiche. Carta? Le statistiche di Stommarino qua. Che cosa vuoi statisticare? Devo guardarlo io. Dovrò fare come si dice? Sì, un tiro contrapposto. Sta saltando sui vermi in stealth. Dai. Lui potrebbe. Sì, vabbè. Noi non vediamo più in là del nostro naso sotto la bufera, lui in stealth salta. Come disse lui, quello io so io. Sì. Dove cazzo sta? No, noi sappiamo che c'è il ponte, tu fregatene, vai, oltrepassa il ponte. Allora. Sì, no, ma intanto è chiaro che io volo, ma intanto tiro, che se lo vedo gli vado già addosso. Non lo vedi. Non c'è traccia di lui. Sì, sta caccato delle 11:30. Arci, leggi il profilo di Kat all'immagine. È tutto lì. Vabbè. Comunque Kat, allora tiro dritto, sempre cercandolo. Hai finito il tuo movimento in questo turno, Atanas. Vedevo meglio da Aquila, cioè, ho capito. No, hai fatto. Il vermone che ha attaccato uscì è tornato giù, vero? Sì. Quindi non ci sono nemici in vista. No, dipende come consideri Vardister. Ma no, è un amico Vardister, no. Comunque, mi muovo in maniera irregolare, cioè magari faccio qualche salto in lungo. Fallo in stealth, Giulio. Puoi farmi... Esatto, fammi una prova di stealth. Prova di stealth? No. Non ha molto senso stealth. Perché stealth? Sì, infatti Cat, io ti sfottevo, eh. Perché? Però mi hai dato una buona idea. Perché descrivimi come lo fai e ti dirò chi sei. Faccio qualche salto in lungo. Anzi, Athletic. No, per me Athletic sarebbe. Athletic, poi, sì. Intervallato da qualche passo normale, perché devo... E io magari ogni tanto mi... giusto per non fare una regola. È geniale questa cosa, Giulio, comunque ti stanno censurando, Giulio, è troppo geniale, cioè Giulio in realtà non sta dicendo nulla, cioè nel senso non ha idea di cosa fare, però è molto convinto, dice, e puoi fare un po' di... perché d'altra parte se poi e poi un po' di probabilmente con aggiunta di verme, ha detto verme è problema. Però intervallo di salti sì, no, ma tutti lo faremo, eh. Intervallo dei salti. Va bene. Catta, ti ha preparato il gufo intanto. Mi ricordo un sacco ancora. Mi ricordo un sacco Corallini che faceva le verifiche e scriveva tipo non avevano senso le parole che scriveva, però erano scritte in modo ambiguo e potevano sembrare delle cose. Con un significato, no, è geniale. Va bene. Tipo una verifica, credo che comunque abbia evitato il 4 in matematica con questa mossa qua, geniale. Ok, Atanas. Perché Corallini al massimo inseguiva il 4 come voto buono. No, vabbè. Puoi farmi una prova di stealth usando come modificatore la forza. Cos'è stata marrata? Non mi si dica grazie. Boh, è tipo una delle prime cose che ti dice il capitolo dell'abilità. Tipo, sì, ecco. Stealth è destrezza, però fagli usare un po' di carisma. Puoi fare stealth in due modi, o facendo piano o sfondando un muro. Esatto. No, ha senso. Paradossalmente in questa situazione può farlo. Ha senso, in realtà. Praticamente se hai se hai stealth usi anche la proficiency, se no no. Questo aspetta, Sceo, che ti è rimasta la lingua. Un attimo. Bravo, Sceo, prendi un inspiration. Ecco, adesso forse Cat è più lì. Adesso forse Cat è più libero. C'è anche il biscotto, Sceo. 11. Ok. 11. Arrivi di fianco a sfortuna. Salta buttata la ciotola di Sceo. Ok. Bene, sentite la terra che vibra ancora, ma non vedete spuntare nulla di minaccioso e ostile. Sfortuna. Ma Cat, anche voi non lo vedete, giusto? Sì, perché mi stava andando tutto. Okay. Stavo avendo dei problemi più del solito. Eccoti ora, però ti vedo. Allora, io mi metto. Mi muovo 30 piedi in totale e di questi 30 ne salto 8, quindi faccio tipo 5 piedi, salto di 2, 5 piedi, salto di 2, eccetera. Riporto 4. Ma che cazzo sta succedendo? Cioè, dobbiamo studiarcela davvero così? Cioè, io non... Cosa? È un esame di geometria. Ah, esatto, ridere. Sì. Adesso vado dritto. E poi uso la mia azione per muovere. Hai sentito, Giulio? Vabbè, basta dire. E poi un po' di... Mi sono fermato. Soprattutto perché... Uso la mia azione per muovere molto regolarmente nella terra a 30 piedi giù dal burrone. La Marco che mi sembrava, Zaya. Camilla. Come hai imparato... Vedi, senti spuntare dietro lo smottamento che il tuo incantesimo provoca un bestione che si affaccia sul precipizio e per poco non cade giù. Poi ti vede e ti salta addosso. No, ed è lì che sta cercando di capire che cosa lo ha provocato. Nel frattempo tocca a Vardistran. Diciamo che stealth non è proprio la mia abilità migliore, però se guardo posso usare la forza. puoi usare quello che vuoi. E seguirò l'esempio di Giulio, farò salti per poi fare un po' di e quando lui si aspetta un po' di ho scritto comunque in generale e però Giulio, se anche perché immagino che non ci sia una parte un po' più dura qui, no? Tipo di roccia, ci sono delle rocce sparse, puoi usare quelle per saltare, sì, appunto, sì, da una all'altra. Sì, faccio un athletics. Ma la sempre hanno distrutto tipo le rocce per andare sul muro. Un athletics per vedere meglio. La scorsa volta per andare sul muro per sono passati si usa athletics dall'interno della montagna. No? Sì, ma per farlo in questo modo devi usare il tuo modificatore di stealth, no, se ce l'hai, per saltare, con il tuo bonus di forza per vedere meglio. Esatto, uso il mio bonus di forza. Quindi è una prova di forza sostanzialmente. Sì. Dove io faccio per aprire gli occhi 8. Un po' più 8 e solo perché ho più 5 in forza. Molto bene. E dopo Vardistran parte Garrosh. Io sfrutto le mie capacità di correre anche su pareti verticali, via dicendo, per cui riesco ad agire in maniera irregolare, ma anch'io decido di usare la mia forza. Ci sta come un buon montone. Ma sì, dai, a puttane le schede. Quindi 21. Okay. Quindi per usare la tua abilità fai sul burrone il percorso sul, esatto, sì, sul bordo. Ci sta. Sì, sì, fino a che 21. Race. Ladies and gentlemen, our brother Aldo in saltelli aggraziatissimi. Tu puoi farmi una normalissima prova di stealth. E invece acrobatics. No, va bene stealth però. No, non dovrebbe, puoi. Dovrebbe essere la stessa cosa per te. Puoi no, farlo perché stealth, puoi è stealth molto più alto. Puoi fare stealth, puoi scegliere 30. Se farlo con la saggezza oppure con l'intelligenza. Okay. Prenda. E uso anche il dash. Sembra tipo un buffet delle abilità. Puoi farlo. Devi lavare. Wow. Arrivi da sfortuna. Dai, la lasciamo. Sono rimasto indietro. Mm-hmm. Beh, tra poco è diretto. Tanto vi sorpasso tutti perché e hai tirato l'iniziativa bassa. No, adesso corro diretto, così tanto io vi raggiungo e poi il Vermone appare arrivo, lì in mezzo. E poi dove arrivo sparo il mio pipistrello e dico vai, cerca un virus. Ok. Vai, scelgo te. Zubat. Esatto, Zubat. Bravi, bravi. Vai, pipistrello. In avanti, ok. Ok, dove sei, Vardistran? E tu io sei... non gioco mai, Katta. No, tu infatti hai saltato anche Marco, credo. Faccia di cazzo di Marco è stato il primo del turno. No, Marco non l'ha fatto. Infatti Katta, non volevo... Va bene che il mio gufo sembra Bocelli in sto caso. Infatti però... non volevo dire Vardistran, Patk. No, allora io direi che a no, sì, volevo dire Vardistran, non nel senso che tocca Vardistran, nel senso che Vardistran ti spunta di fianco che ti dà un morso. Va bene, ti manca e torna giù. E io attacco l'opportunità. Prego, puoi anche usare la tua abilità per seguirlo. Ma tecnicamente 20 no, però critico o di o il totale? No, critico. Critico. Ah, quindi 31. Tanto sono infiniti i vermoni, cioè. Vabbè, ma infatti non sto a sperticarmi. Però ho doppi dadi, no? Sì. Ritirai uno, vai. Ah, migliorato. 5, 12, 17, 24. 24. Patk. Allora, io a sto punto direi che per bene. mi sa che mi conviene usare la costituzione del nano per guardare meglio da gufo. Un'ottima idea. Che ce l'ho più alta. No, no, vabbè. Continua a sorvolare prevedendo un po' la l'andazzo del suo movimento e osserva. Oh, bravo, grazie del gufo. Oh, che carino. Dov'è? Ma fallo grande, dai. Vediamo. Grande che largo. È un gufo gigante, tanto, non sei? Sì. Oh, ma che bello. Tiro su. Perception. Ma che bello il gufo gigante. Guarda che ha in bocca un qualcosa. Cosa c'è? Chi me lo tira? Il dado, Sta a me, mi sa. Vai, Vez, hai vantaggio. Sta a me, bellissimo. Ho tirato un 17, devo tirare anche l'altro? Hai vantaggio, sì. Sì. Eh no, in realtà no, non hai vantaggio. Non ha vantaggio. No, scherzavo. Perché avresti svantaggio, quindi... Vabbè, 17, comunque ho più... No, più 7, cos'è che ho? Più 4, più 3? Sì, più 7. Ah, è la tua, sì. 24. 4. Non lo vedi, tutta la neve. Catta. È secondo me è aumentata la neve. Se non lo vedo con 24, cosa fai? Devi sperare che mi andare cose. Sei murato di pattuglie. È quel momento prima dell'alba. È quel momento prima dell'alba in cui diventa particolarmente buio. E anche se hai l'abilità, in quel caso, non... no, è che si sta proprio dirigendo sulle sorge. Cos'è quella tipa con la pasta? La prima cosa che ho trovato. Niente, non vedi... C'è una signora con una teglia di lasagne. È una cameriera. In mezzo alla bufera. Oh, dai, cazzo, che devo anche staccare. Vedi Radin che sta attraversando il ponte. Bloccalo, mangialo, buttalo giù. E questo era il tuo turno. Prendilo! No, cosa? Catta, ho tirato su percezione, mica mi salta il turno, mi sono neanche mosso di una scoreggia. Sì, hai fatto il tuo movimento. Buttalo, e l'ho superato, giù. Radin? O minchia, prendilo, cioè, buttalo. È più avanti. È più avanti. Figata. Dov'è? Fammi vedere dov'è. No, la figata atomica. Prendila e buttala giù. Sì, Vez, prendilo. Minchia, sai se lo riesci a prendere, Arci, e poi lo butti giù. 40 piedi, tipo. Cosa? Scusa un attimo, io che sono un gufo gigante se che volo butta un botto, giù muore. Sono più indietro di lui? Che si muove a zigzag, catta? Buttalo giù. Non si sta più muovendo a zigzag qui, sta correndo dritto. Eh sì, perché è finito il tempo dei vermoni. Ho capito, ma comunque non può andare più veloce di me. Cosa ne sai? Beh, tecnicamente no, perché comunque lei ci sta. Arrivo, catta, ci vediamo tra poco, bello. Sta cavalcando, secondo me. Turno di Radi. Sta cavalcando un vermone, Radi. Sì. Sta cavalcando un vermone, Radi. Sta serfando sul vermone. No. Arci è la nostra unica speranza. A questo punto, allora abbiamo perso. Perché... Beh, comunque lo indico. A questo punto, abbiamo perso perché. Una specie di vantaggio agli altri per farmi vedere. E che noi siamo indietro, Arx. Lui scusa, può usare l'azione per scattare così si muove gli altri 60 piedi, no? Ma voi dove cazzo siete? Molto così più indietro? Sì, al controllo della spezia. Vabbè, sì. Sì, sei vabbè, tu. Raga. Io a Radin gli batto la mano sulla spalla e dico, grande Vez, sei salvo, scatta. Ma no, lo prendi e lo butti giù. No. Comunque, Arci, epico. Io mi muovo più veloce di te, Arci. Di me gufo o di me... Di te gufo. Beh, 60 piedi normalmente solamente di movimento vuol dire che mi posso muovere anche del doppio. Io ho 60 più 30. Tu hai 30 più 30. No, due movimenti cosa sono? 60. 30. 60 più 30. Io posso fare 60 più 60. E perché non sei andato adesso 60 più 60, ma sono andato 60 alla volta? Perché Katta non mi fa fare gli altri 60, oppure mi ha usato fare... No, mi ha fatto fare... Perché usavi l'azione per vedere. Sì, ma Perception mi usa come un'azione, Katta. Sì. Dai. È certo, è un'azione. Sì, vabbè, è un'azione. Apro gli occhi, guardo. No, non è gratuito. Apro gli occhi. Quell'altro salta con forza, guida i vermi, salta sulle pareti e si muove a 220. Io apro gli occhi col gufo e stai fermo. Ma hai notato che Sceo però dà sempre ragione a Katta. Vabbè, sì, come non è. Se no non gli riempie la ciotola. Decido di surfare su questo monte. Certo, Sceo, è sempre stato così. È sempre stato così, era una visita, sì. Un'azione. Io pensavo di guardare con gli occhi. Questo puoi guardare con le orecchie se desideri, ma con gli occhi non credo proprio. Sta? Io devo staccare però. Però se vuoi puoi usare... Sei l'unico che può giocare. Arci seguirà, lo tiene d'occhio, cioè. In realtà se usi l'udito per cercare di sentire l'aria hai vantaggio. Sì, conta che io ho finito le forme perché ho usato una un piccione, l'altro un gufo gigante. A quanto pare il gufo che apre gli occhi mi costa due azioni tra incantesimi di livello 3. Tu devi semplicemente prenderlo e buttarlo giù, non voglio che tu faccia altro. Let's, non posso prenderlo con 19 punti vita e buttarlo giù. A parte che se lo prendo devo prendere gli occhi chiusi, perché se li apro poi non posso buttarlo giù. No, poi il gufo gigante ha 13 in forza. Comunque. Sì, vabbè, un garpelli. Sì, faccio così, Vez. Io lo tengo d'occhio e buona alla peggio e qua autorizzo chi mi gioca il nano. Posso diventare nano? Prendo lo schiaffo finché poi non puoi diventare un tirannosauro che ci spalma sopra e lo blocca lì? In realtà sì, però poi se mi tira uno schiaffo e perdo la concentrazione torno nano, quindi... Però intanto l'hai fermato e arriviamo anche noi. Beh, tirannosauro ti deve tirare intanto arrivate anche voi, Sceo. Come minimo si fanno altre due ere geologiche. Altre due rade. No, il più veloce di voi è Salla, quindi prima arriva lui. Oh, rega, sbattiamo, ce ne andiamo diretti. Dai, faccio così, lo tengo d'occhio e intervengo però solo quando voi lo raggiungete, se lo raggiungete. Vabbè, chi sta? Vi ho perso. Katta sta usando la tecnica Giulio. Ah, cazzo, abbiamo perso Katta. Katta. Vabbè, raga, fermiamoci qui. No, si muove. Non parla, però si muove. Eppur si muove. Sì, raga, devo staccare. Raga. Va bene, Arci, ciao, staccati. Via, via, ciao. Vola via. Buonasera. Ciao, Arci. Buonanotte. Ciao, salutatemi Katta. Anzi, adesso arrivo dalla sua webcam tra poco. No, ma credo ciao. Ci senta. Ciao, ciao. Non lo so, Katta non sta dando molti segni di vita. Ci fermiamo, rega, ci fermiamo. Fermiamo così? Questa incredibile caccia all'uomo. In sta puntata abbiamo fatto tipo... Esatto. Esatto. Questa puntata abbiamo... Perché d'altra parte... Che poi in effetti... Vabbè, ragazzi, mi sa che tra il mio monologo, che però è durato il mezzo turno di una persona... No, dicevo che non abbiamo fatto 100 metri. Ah, no. Sarebbe stato difficile. Eccolo! Katta! Sì, ma non lo sappiamo. Katta! Da briga, togli questo cazzo di sfondo. Lui ci sente. Il microfono è quello giusto? Sì, sì, ora sì. Non ho idea di perché sia andato via la voce. Era 10 minuti che dicevo tocca ad Atanas e non succedeva niente, effettivamente. Potevo immaginarlo. Va come prima, vado avanti a balzelloni. Ok, ti avevo già spostato. Allora, chi rimane? Gli ultimi due? Niente. Questo no. Va bene, direi che possiamo metterci una pietra sopra, perché anche domani purtroppo sarà una giornataccia, quindi visto che è già andato tutto a puttane. Tutto a puttane. Esatto. A puttane. Citazione colta. Chi è tutto a puttane? Che abbiamo fatto la metà di quello che pensavo facessimo. No, no, Catta, non abbiamo neanche fatto metà. Lo so, ho sentito. Mi dispiace, ragazzi, io non so che farci. Se avete dei suggerimenti, ditemi, saranno ben accolti. Quante puntate mancano? A questo punto, secondo me, arriviamo a 100 facile facile. Oh. No, se sono tutte come questa... Spero di no. Il suggerimento della regia è questo. Facci una volta, un piano che funzioni. Ma così, ma per cambiare. Scemo, cosa mi stavi dicendo? No, che ti consigliavo di togliere tipo le preposizioni, gli avverbi, cioè di solo soggetto predicato. Parole così. Chiave. Sì, esatto. Comunico. Se no prendo dei fogli e faccio i disegni. Non ha funzionato. Sì. Vabbè, comunque a disegno. Prendo fogli e faccio disegni, vedi, veniva più corto. Disegno? Sì, bravo. Va bene, vabbè, dai. Eccolo, eccolo, Catavriga. Va bene, va bene, dai. Comunque ci siamo comunque divertiti a inseguire Radi. Sì, e sì. Chissà. Beh, a questo punto è pronta forse anche la prossima puntata. Sì, penso di sicuro. Prossima settimana che cosa possiamo fare? Vediamo cosa succede. Quindi aspettiamo la settimana. Per ora sì. Scherzando. Fino a che Giulio subito una edizione. Giulio, sti articoli. Deve fare l'immagine. Ho scritto quasi uno. Ma deve fare l'immagine. Ma l'immagine puoi usare anche quella una sola? No. No. No. Dai, oh. In realtà l'immagine alla fine la... sono d'accordo, parole chiave. Scusate, tipo risate, momenti di silenzio. Oddio, è andato via. Giulio si è offeso. No. Direi che posso fare il sequel la prossima volta. Va bene, va bene. Quindi, attenzione, attenzione, perché sarà l'episodio 60. Come si scrive? Io mi prenoto per il riassunto. Scusa, come 60? 100? Come cazzo ci arriviamo? Aspetta. Zizzacca un altro po'. E ci arrivi comodo. 60 come si scrive, tra l'altro? LX, può LX, essere. LX, ok. Sì, sì, faccia, 6 0. Sì. Ci sta. Grazie, Sali. S-S-A-N-T-A. Va bene, ragazzi. Avete visto episodio 59 della maledizione di Catta, la corsa contro l'aria. Tra l'altro io l'avevo annunciato tipo, questa sarà una puntata clamorosa, seguiteci, sì, pazzesco. Non si sono scherzi. Questa è una puntata clamorosa. Ma perché io pensavo che Catta comunque ci avrebbe fatto combattere con Radi, invece no, l'ha fatto scappare. La prossima è più che altro un 59 bis, un 60 direi. Esatto. Va bene, continueremo nell'ultimo, nella rincorsa a Radi. Salutiamo chi ci ha seguito, in primis Ambra, che ha continuato a postare, la posta del cuore dei goblin, ricetta per tutti gli orchi, gufi per tutti i gusti. E Catta è l'uomo dei manuali. Che sempre. Ma quello forse io non ho sentito. Comunque... grazie per averci seguito, continuate a farlo sui nostri canali social, Tycoons & Dragons, RIP GDR, compreso il podcast che si aggiunge di un nuovo ditino, no, di un nuovo episodio che è quello della maledizione di Catta. Appuntamento per il momento è alla prossima settimana, ma rimanete sintonizzati perché potrebbero esserci delle novità. Ciao a tutti, oh. È stato bello. Ciao. Ciao.